La serata di ieri ha portato a nuove proteste contro il decreto che impone la chiusura di palestre, piscine, di ristoranti e bar alle 18. A Trieste, dove il sindaco ha detto che non rispetterà il decreto. A Torino, dove sono state rotte delle vetrine e ci sono stati scontri con la polizia. A Milano, con lanci di Molotov. Le tensioni si fanno anche politiche, con la Lega che ipotizza un ricorso al TAR. Italia Viva che contesta le misure e il PD che attacca Italia Viva. La giornata di ieri, intanto, ha fatto segnare un migliaio di ricoveri in più e 80 persone in più in terapia intensiva. La notte ha portato anche una notizia molto attesa che apre l'ultima settimana di campagna elettorale negli Stati Uniti. Amy Barrett ha giurato come giudice della Corte Suprema. Sulla scelta di Barrett, cattolica, tradizionalista, e sulle modalità di scelta così a ridosso del voto, si appuntano le critiche pesanti dei democratici. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, martedì 27 ottobre, sono le 6:31 minuti e 45 secondi. In regia c'è Peter Bescapè, c'è Giorgio De Luca, in assistenza in redazione. E in redazione ci sono come sempre anche Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli e Margherita Ina e Francesco Arciarafo sono i nostri autori. E ci siete voi, ovviamente, che se volete potete raggiungerci al 349-238-6666, è il numero per i messaggi su WhatsApp, SMS, tutto quello che volete. Ieri, lo sapete ormai, lo avete sentito anche in GR24, è stata una serata di proteste contro questo decreto. A Torino, per esempio. E voi siete voce di burattini di uno Stato che non c'è più! Libertà! Libertà! Torino, dove poi c'è stato una sorta di assalto ad alcune vetrine, tra cui quella di Gucci, dove dal negozio sono stati rubati degli oggetti, sono stati portati via degli oggetti. Proteste anche a Trieste. Via! Via! Soldi! Via! A Milano. Trieste, dicevamo, dove il sindaco di piazza è andato dai manifestanti, dove sono successe due cose a dire il vero. La prima è che a un certo punto, da delle foto che stanno circolando su internet, però ve la metto là, va verificata la cosa, si vede un'immagine nella quale alcuni carabinieri si tolgono i caschi e si mettono dalla parte dei manifestanti, però ve la metto là perché sono cose che stanno circolando in rete e delle quali l'autenticità va verificata fino in fondo, però come elemento di segnalazione. E ve lo dico perché è una cosa della quale si parlerà nell'arco della giornata. Vedremo se riusciremo a verificare se questo effettivamente è avvenuto oppure no. Come raccontano le cronache, quello che è avvenuto certamente è che il sindaco ha detto: non rispetterò il decreto. Io sono 19 anni che faccio il sindaco e ho sempre rispettato quelle che sono state le leggi di PCM, però questa volta no. Così di piazza, con regioni e province autonome che protestano, alcune province autonome come quella di Bolzano, per esempio, anzi alcune, sono due, una delle due, quella di Bolzano, ha deciso in realtà di prolungare le aperture. Dicono: siamo autonomi, possiamo farlo, e così facciamo. Di certo la questione delle chiusure è al centro della scena, dice la virologa Viola, che è stata ospite anche da noi ieri ad Agorà, dice: guardate che qua hanno chiuso con la falce. c'è stato contagio nei cinema? Io francamente non credo, però se non ho i dati in mano non lo posso dire. Allora, se nel cinema non ci sono stati contagi, perché devo chiudere il cinema? Quindi non si può in questo momento, dopo tanti mesi, andare con una falce e andare a chiudere tutto quanto senza avere in mano i dati che giustifichino queste scelte. E guardate che è esattamente il problema che poniamo noi da giorni. Probabilmente qualche protesta tu potresti avercela comunque. Detto ciò, se tu sei in grado di trattare i cittadini non come dei bambini, ma come delle persone alle quali spieghi le cose come stanno e gli dici: guarda, scelgo di chiudere queste attività per questo e questo motivo, che magari non è una questione di contagio, ma è semplicemente perché dici: così evito che la gente si muova dopo le 18, ci fai un favore. Ieri, per esempio, avevamo ospite il vice ministro Sileri, il vice ministro della salute, e gli ho chiesto: mi scusi, sulla base di quali dati, ad una settimana di distanza dall'annuncio, avete deciso come governo di chiudere palestre e piscine? La risposta: beh, guardi, i dati immagino che siano in possesso del comitato tecnico scientifico. Ma lei li avrà visti? Lei li avrà visti, Sileri, o no? No, guardi, io i dati non li ho visti. I dati vengono presentati, come ben sapete, nel fine settimana, quindi tra il giovedì e il venerdì, ma l'analisi accurata delle varie attività, eccetera, immagino. Così è, Sileri. Dice: io i dati non li ho visti. E chi li ha visti? Ha visti solo il comitato tecnico scientifico? Chi li ha visti questi dati? Ancora Viola. Qui c'è un problema, qui i dati noi dovremmo averli. Ecco, io chiedo che invece di un approccio di buonsenso, di pancia, di chiudiamo tutto in maniera generalizzata, si utilizzino i dati per capire quali sono i luoghi in cui effettivamente in questi mesi è avvenuto il contagio. I dati del tracciamento ci devono essere, qualcuno deve... Però questi dati del tracciamento evidentemente non ci sono. Diceva la virologa Viola che hanno chiuso con la falce perché non ci sono prove, per esempio, che in teatri e cinema ci si infetti. Il ministro alle attività culturali, Dario Franceschini, dice: me ne assumo la responsabilità. Per questo noi abbiamo discusso dentro il governo, come era logico, quale provvedimento adottare. Ognuno ha portato i diritti, le istanze dei mondi che rappresenta guidando un ministero, ma io mi assumo la responsabilità diretta di questa scelta. Poi sarà il tempo a dire se è stata giusta, se è stata sbagliata, se è stata necessaria o no. E all'ascoltatore che è un medico che ci scrive da stamattina, non so se è un medico o un infermiere, e dice... i dati ci sono, 13.000 ricoverati, 1.300 in terapia intensiva, sì, ma sono i dati appunto degli ospedali, che sicuramente sono rilevanti, ma non ti dicono quali sono le attività maggiormente a rischio. Per quello servono altri dati un po' più puntuali, oppure una spiegazione. Io non sto dicendo che sia necessariamente sbagliato tutto questo, però ripeto, il mio tema è non trattarci come dei bambini, per cui... arrivare in una conferenza stampa, fare una conferenza stampa di 10 minuti la domenica, nella quale si dice: ah, abbiamo deciso di chiudere questo, questo e questo. Perché? Boh. I dati non vengono forniti. Non viene detta la motivazione. Per cui se tu decidi, dici: guarda, non ho dati precisi, però so che molta gente si mette in movimento dopo le 18 per andare in palestra, in piscina, al ristorante, a teatro, al cinema, e quindi voglio evitare che la gente si muova, e quindi chiudo per questo motivo, allora però dimmelo. Basta toni paternalistici, basta trattare i cittadini come dei bambini, punto. Questo è il problema. Chiede Zaia: perché i musei sono aperti? Secondo voi che senso ha pensare che il ristorante crei problemi, che apri le linee guida, e il museo no? Cioè, perché sono rimasti aperti i musei? Ma è una scelta politica questa. Allora non è epidemiologica. Io non ce l'ho con i musei, ma si è chiuso tutto. Perché solo i musei aperti? Oh, non solo i musei, Sentiamo il segretario generale della UIL, Bombardieri. Perché non è possibile andare in un teatro, un grande settore la cultura abbiamo sempre richiamato come perno rilevante del nostro paese, ed è possibile andare in chiesa. Sono cose sulle quali ovviamente ognuno di noi ci si interroga e non si dà una risposta. Ritorna il tema delle chiese, come vedete stiamo seguendo perfettamente lo schema della prima ondata, solamente che in una condizione più rapida. Siamo con Paolo Barelli, che è presidente della Federazione Italiana Nuoto. Buongiorno Barelli, benvenuto, eccoci. Buongiorno a tutti, buongiorno. Le discipline sono nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere, nuoto per salvamento, 1200 società affiliate, 5 milioni di italiani che praticano gli sport collegati e qualche ascoltatore che dice guarda che se l'obiettivo era non farci muovere dopo le 18, io in piscina ci vado alle 7 di mattina, molti in realtà ci vanno a quell'ora. Barelli, vi sono stati forniti dei dati e delle informazioni sul perché siete stati selezionati? No, non su base scientifica. Certamente tutta la categoria dello sport, in generale, in particolare il mondo del nuoto, quindi delle piscine, delle palestre, è un ghiotto settore del quale probabilmente i tecnici diciamo addetti alla lotta al Covid possono dire: se li faccio stare tutti a casa, ho qualche milione di persone che stanno appunto chiusi nelle loro abitazioni e non vanno in giro. Ecco, questo sarà stato il ragionamento, ma sì, è un ragionamento che non regge, molto superficiale, perché specialmente tutti i giovani, i tantissimi giovani che vanno e frequentano lo sport, le piscine e le palestre, è chiaro che poi vanno per strada, no? Quindi è un ragionamento che non sta in piedi. Sì. Conte le ha detto: vi daremo i soldi, cioè vi daremo i ristori dei quali avete bisogno, no? Ma Conte questo ha detto, e per carità, diamo pure per scontato che ce la metterà tutto, ma non credo che saranno assolutamente sufficienti per colmare i danni, questi ulteriori danni che sono stati causati dopo il primo lockdown. E peraltro diciamo che potevano essere anche soldi, non dico risparmiati, in quanto le piscine specialmente, ma anche le palestre, ormai è da mesi che si sono adeguati alla tutela della salute in questo momento di pandemia, quindi già gli accessi erano limitati, non solo dal fatto che la gente non ci va più volentieri in palestra e piscina, ma anche da tutte quante le attenzioni che erano state poste. Chi è che è andato in piscina e in palestra recentemente sa che dalla misurazione della temperatura alla tutto, la sanificazione, al controllo delle distanze, al fatto che gli indumenti rimanevano nelle borse del singolo utente, e poi per quanto concerne le piscine, l'aspetto dentro acqua è evidentemente sì, un anti-Covid proprio naturale, cioè non naturale, nel senso che ci mettete il cloro e quindi no, non è naturale, però è un po' il ragionamento, Barelli, che abbiamo sentito fare anche dalle palestre. Allora, ci avete fatto sistemare tutto in modo che fosse sicuro, la sanificazione degli attrezzi dopo che sono stati utilizzati, il controllo di temperatura all'ingresso, il distanziamento degli attrezzi, sì, per fare cosa? Poi per farci chiudere, un po' questo è il punto, sì, che lei sottolineava. Ma non solo, una settimana oltre fa, 10 giorni fa, il Premier, a reti unificate, aveva già messo cattiva luce, perché forse la decisione era già stata presa. E proprio nella settimana scorsa ci sono state oltre 200 visite dei NAS in tutte le piscine e le palestre d'Italia, e sono usciti questi tutori della salute pubblica facendo i complimenti a tutti i gestori proprio per le misure rigide che erano state messe in funzione all'interno delle piscine e delle palestre. Quindi non è assolutamente stata una decisione accettata. Bisogna stare attenti, perché da questo punto di vista lo sport che è, diciamo, rispetto per le regole e correttezza. Ecco, nel momento in cui il mondo dello sport capisce che ci si muove in un modo non corretto, non consono, insomma, reagisce in maniera molto, molto dura, nel senso che il disappunto è totale, quindi non è accettato. In più, mi permetta farete, di dire... farete ricorso, Barelli, Alta? Io vedo che i ricorsi iniziano a girare, ci sta pensando dal punto di vista politico la Lega, lo stanno pensando per esempio i centri commerciali della Lombardia, racconta oggi il Sole 24 Ore, che stanno studiando un ricorso al TAR contro l'ordinanza regionale che stabilisce la chiusura nel fine settimana fino al 13 novembre. Ricorrerete? Guardi, la Federazione Nuoto non si mette ovviamente a dare contro alle decisioni delle istituzioni, ma i singoli sono molto arrabbiati, e i singoli sono tanti, perché sono singoli che diventano centinaia di migliaia di lavoratori che vedono veramente venire, dopo molti mesi di pandemia, venire meno la possibilità anche del loro lavoro. Le società sportive che gestiscono gli impianti in grande misura veramente non ce la fanno più. Se non arriva un ristoro, non elemosine, ma un ristoro vero, questi impianti falliscono. Sì, falliscono, attenzione, lo sport in Italia lo si fa esclusivamente perché esistono le società sportive, non lo si fa nella scuola, i comuni non hanno i fondi per poter attivare politiche sportive. Barelli, non ho capito una cosa, ma lei ha notizie, perché da Presidente della Federazione sarà in contatto, no, con queste realtà, ha notizie di gestori che si stanno preparando a fare ricorso? Ma ci sono gestori che sono anche pronti ad andare in piazza, e credo che ci siano anche gestori che vogliono assolutamente anche andare presso il Tribunale Amministrativo e fare ricorso. Ma vede, io vorrei chiarire però una cosa. Da cittadino e anche da presidente a cui fanno riferimento migliaia di impianti, rispetto alle norme è fondamentale. Se ci fosse un lockdown, perché la situazione epidemiologica diventa sempre più dura e più negativa, tutti quanti i cittadini, anche ovviamente quelli dello sport, rimangono fermi a casa in attesa di tempi migliori. Il problema è perché andare a prendere gli impianti sportivi, le piscine e le palestre, quando il resto del paese è aperto, quando il problema sono i trasporti, lo si sa perfettamente. Non è tanto la scuola in sé per sé, ma tutta la mobilità che crea durante il giorno i presupposti nell'ambito della scuola di poter quindi avere punti di contatto e quindi di addensamento di persone. Perché andarsela a prendere con le piscine e le palestre, dove invece la gente entra nella massima tutela e nella maniera più assoluta si aggrega e si addensa? Questo è un qualcosa che non è accettabile. Dopodiché sì, è chiaro, sappiamo perfettamente che ci troviamo in un momento molto difficile, e quindi non è che nessuno delle categorie, vedi lo sport, deve essere privilegiato, ma non per questo si tiene aperto tutto e si chiude soltanto le palestre e le piscine. Questo non è un atteggiamento compreso dagli utenti e dai gestori. Grazie Paolo Barelli, presidente della FIN, della Federazione Italiana Nuoto. Buona giornata, traffico. Grazie. Scrive un ascoltatore: lo Stato ha deciso di punire e chiudere lo svago e il tempo libero. Di fatto rimarremo lavoro, scuola a distanza e chiesa, naturalmente, perché in chiesa ci si può andare. Però scherzi a parte, qua qualcuno mi accusa di essere un negazionista, dico, datevi un... regoliamoci su questo, perché fino a ieri accusavate di essere un terrorista del Covid. Io sto semplicemente dicendo che vorrei i dati, cioè vorrei delle decisioni ben motivate. Da cittadino vorrei delle decisioni ben motivate. È come la questione della scuola e della didattica a distanza. Adesso sentiremo su un altro punto. Anzi no, sentiamola proprio su questo, sempre la virologa Viola, che su questo ha fatto uno studio dicendo che a scuola non ci si contagia, non ci si contagia. Ce l'abbiamo, Vorremmo avercelo. Sentiamola un attimo, via. Analizzando questi dati, come abbiamo fatto per esempio io e Bucci per la scuola, dicendo non c'è contagio della scuola, non è la scuola la causa dell'aumento dei contagi, abbiamo, certamente sì, abbiamo analizzato i dati, li abbiamo messi a disposizione di tutti quanti, li abbiamo mandati al ministro Azzolina, così come li abbiamo mandati a tutti quanti, al viceministro Sileri. E certo, il problema non è la scuola, sono i trasporti, è uno dei problemi, naturalmente, uno dei problemi principali. E qua a Rigogiana il presidente dell'Agenzia Confederale dei Trasporti e numero uno dell'azienda dei trasporti milanesi, dell'ATM, intervistato stamattina al Corriere della Sera, dice: c'era un titolo di una sua intervista che diceva: la città cambia orari oppure code ai tornelli, a settembre il vero test. Poi dice: ci si è riempiti la bocca con gli scaglionamenti degli orari scolastici. Chi lo ha fatto? Ma pensate che il Ministero dell'Istruzione abbia mai chiesto alle agenzie di trasporto cosa fosse necessario fare? No. E quindi, di che parliamo? Poi si finisce alla scuola. Perché si finisce alla scuola? Perché si finisce a palestre e piscine? Perché non ci si è pensato prima. E come diciamo sempre qua, le colpe vanno a tutti. Un 33,3% al governo, un 33,3% alle regioni, un 33,3% ai comuni, non tutti naturalmente, e non su tutte le cose, però qua le istituzioni hanno fallito in questa gestione, posto naturalmente che in tutti, in molti altri paesi le cose stanno andando altrettanto male. Però la lezione che abbiamo imparato noi, che è stata più dura e molto più dura di molti altri, avrebbe dovuto dirci qualcosa. Evidentemente non ce lo ha detto. Ritorna, e se volete come tema di dibattito, la questione tutelare gli anziani. Ieri Toti aveva detto: facciamo un lockdown, una sorta di lockdown mirato per la popolazione over 60, che sono quelli più fragili. Prevediamo degli orari specifici, dei voucher per i taxi, eccetera, eccetera. Da Genova il Bassetti dice, l'infettivologo Bassetti dice: sì, facciamo, non dice proprio questo, però dice: pensiamo a tutelarli. Vogliamo creare dei risultati, allora andiamo a mettere in sicurezza quelle che sono le persone che sono più colpite da questo virus, che hanno delle maggiori conseguenze, perché sì che i giovani sono colpiti, ma guardi che i giovani, io sono qua, adesso vi saluterò, ne ho ricoverati, ma dopo 2 o 3 giorni che sono in ospedale, fortunatamente, grazie a come siamo diventati più bravi a gestirlo, poi riescono a uscirne. Chi ha più difficoltà? Posso fare una domanda? Sulle persone anziane. Oh, un'ultima risposta a un ascoltatore che dice: i dati sono più o meno 100.000 infetti in una settimana. Sì, ma è un dato generico. Io quello che dico è che ci vorrebbero dei dati puntuali. Se tu decidi di fare un lockdown generale, il dato generale degli infetti ti basta. Se tu decidi di chiudere singole attività, ci vogliono dati puntuali per questioni di trasparenza nei confronti dei cittadini. Punto. Poi puoi decidere di farlo? Sì, puoi decidere di farlo. È negazionismo questo? No, è richiesta di chiarezza. Oh, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, tutto quello che volete. GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa.